cazzo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, la terza ora del sabato del villaggio. Daniele, puoi cominciare che guardo se c'è ancora il sole, se è già no, sera. Non c'è mai stato. No, oggi. Nel senso, se c'è ancora bel chiaro, se è ancora giorno. Perché non ho ancora guardato fuori. Ha piovuto fuori da stamattina tipo alle 5. Ma però già non è ancora buio, dai. Abbastanza buio. Senti, ma Elio, il delirio. Che io poi li ho visti lì al bar che salivano. No, vi guardavo da lontano. Hai detto, oh, ma scusa, ma tutti gli. Ma sono vabbè, stati ma potevi venire a la salutarli. Comicità. Sono timido. Sono veramente. La comicità. Allora. Account. Allora, RadioTube, voi potete ascoltare alla radio quello che avete visto in rete tra il perdibile, l'imperdibile, l'imperdibilissimo, quelle cose che dicevamo nella prima edizione. Di RadioTube. Marta Cagnola lo diceva e poi potete scriverci su Twitter @MartaCagnola, @DiBellasio, #RadioTube oppure #ISDV. Cosa ti ha fatto ridere in questo periodo? Sì, sta un po' andando via la voce. Sì, è quella di... perché... una volta era Verona Inter, poi c'è stato Inter Juventus, non so, l'impresa sfiorata. Quanto quindi mi sono divertita. La mia voce è grazie, sei un'amica, veramente. È bello condurre con te. Sì. Allora, questa settimana, questa trasmissione parlerà solo di House of Cards, perché è iniziato House of Cards. No, non l'ho visto io House of Cards ieri. E quindi non parliamo di House of Cards. No, non parliamo di House of Cards. Neanche un ospite ce l'avremo su House no, of Cards. Niente. Non lo so, vabbè, dai, ci pensiamo. Allora, cosa mi ha fatto ridere questa settimana? Non lo so, immagino a te, Crozza. Sì, un sacco. Ecco, un sacco. E quindi adesso no, vi prendete allora, un'ora di trasmissione su Crozza. Ma perché... no, il cuoco vegano. Ma non ti è piaciuto il cuoco vegano? Ma non ti fa ridere da morire? Mi è piaciuta la prima sera. C'è stato anche la seconda? Senti qua, il cuoco vegano. Benvenuti nel mio ristorante. Sì, che ricordiamolo si chiama Il Satut. Il Satut de Carton. Qui a Milano. Qui a Milano, infatti. Perché. Sto aprendo un po' un franchising. Ah sì? Sì. Ah, anche a Bologna. A Bologna, come si chiama? Il Sato den Cast. Vabbè. E invece sto aprendo anche, sì, sto aprendo anche sì. Uno a Genova. A Genova, immagino che si chiamerà. Uno Sadembe. Eh? Uno Sadembe Link. Il franchising. È un franchising, sì. Perfetto, sì. Prima di iniziare, sì, però vorrei dire una cosa ai tanti amici che ci hanno scritto delle mail di protesta. Vabbè, ma che hanno fatto i commenti brutti su Facebook. Vabbè, un fenomeno. Cari amici, io voglio rassicurarvi, in questo ristorante tutti i cereali, gli ortaggi e la frutta che cucineremo sono volontari. Volontari. Cioè, è inutile, fa finta di non ridere, poi però scoppia a ridere. Ho capito, perché oltre al corso del bravo conduttore, mi stai facendo il corso del bravo fan di Crozza. Fa ma dai, ridere. Fa veramente ridere il cuoco però, vegano. Tu sai che io ho un nuovo leader. Sì, chi è? Un nuovo leader che vuole esportare la liberal democrazia in televisione. E chi è? A cuoco rispondo con cuoco, con grande chef, anzi, a cuoco vegano più o meno rispondo con grande chef. Senti un po', senti cosa dice. Siamo in democrazia. Facciamo parlare tutti? Tutti. Ma lei lo ricucinerebbe questo piccione? Lo faccio da 35 anni e non lo smetterò sicuramente oggi, perché lo dicono loro. Vanno tanto di moda i vegani, lei cosa ne pensa? Non lo so, no. Cioè, hai capito? No comment. Io ti ho risposto con Cracco. Hanno attaccato Cracco perché ha cucinato il piccione? Vabbè. Già ci ha pensato Cruciani a rimettere sì, a posto. Allora, io non mangio posto. Né piccioni né conigli, non ci riesco. Anche non perché non riescono. È che si mangi no, moltissimo. No, poi non ci riesco. Lo stinco di piccione, per esempio, secondo te com'è lo stinco? Io potrei mangiare al massimo il filetto di piccione o una fettaccia, cioè non devo vedere la forma perché non posso. Secondo me Cracco ha dato una risposta veramente molto equilibrata e intelligente. Sì, voglio sì, dire, siamo sì, in democrazia, sì, quelli sì, possono sì, dire così, io faccio lo anche chef. Anche perché il piccione volontario non c'è ancora. No, però hai sentito che la giornalista, giustamente, certo, credo di Corriere TV, dopo chiediamo a... chiedeva, no, però vanno molto di moda i vegani, quelli che piacciono a te, a Crozza. Sì. E giustamente lui non ha risposto. Non ha risposto, no comment. Beh, grande, grande settimana. Nella politica c'è qualche uscita interessante? Allora, tu devi sapere che Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non riescono proprio a trovare un accordo su Roma. Noi siamo a Milano, però Roma è anche importante, voglio dire, è pur sempre la capitale. Allora, Matteo Salvini ha fatto le primarie, e è uscito vincitore Marchini, secondo la Pivetti, Bertolaso non è andato tanto bene, devono trovare un accordo per fare delle primarie più o meno vere, delle primarie dove c'è solo un candidato, è una cosa un po' strana, tu puoi dire sì o no a Bertolaso, però credo che tu non voglia parlare delle primarie. No, non voglio parlare delle primarie, voglio parlare della svolta religiosa. Della svolta religiosa. Della destra italiana, sì. che da un po' di tempo che c'è una svolta religiosa in atto. Sì. No? Ha iniziato Berlusconi. All'Aquila. Sentiamolo. Ci ha accusato di avere fatto delle case non comode, non vivibili, ci ha accusato di avere speso troppi soldi. Bene, quando Guido ed io andiamo all'Aquila, se veniamo portati in giro come la Madonna, abbiamo organizzato di andare insieme, verremo portati in giro come la Madonna e il bambino Gesù. Dobbiamo decidere chi fa la Madonna e chi fa il bambino Gesù. Non ci posso credere, ma ecco, davvero. Cioè, ci vuole un attimo di equilibrio. No, ma proprio l'ha toccata pianissimo. No, nel senso che Silvio ha detto lo profile, mi presento qui, dico delle cose tenere. Ecco. Spinoza ha commentato: Berlusconi, per gli aquilani io e Bertolaso siamo come la Madonna e Gesù, inesistenti. No, ma che cattivezza. Ci scusiamo con tutti chi crede. Ma Matteo Salvini, siccome c'è questo dibattito sulle primarie, tra l'altro Berlusconi nell'audio che abbiamo sentito appunto parlava anche di Guido. Guido Bertolaso, che è il suo candidato sindaco di Roma. Ma anche Salvini ha la svolta religiosa, cioè più o meno, anche Salvini va in quel campo lì dei paragoni. Ce li vedo benissimo, sentiamolo. Salvini. Però il problema è parlare con tutti, perché chiunque scenda in campo, anche Gesù Bambino in questo momento, con una frammentazione simile ben difficilmente vince. Vabbè, ormai non niente, so, sarà perché cioè, praticamente, quaresima. Sì, sarà perché quaresima, non dovrebbero troppo parlare. Esatto, e niente, gli è piaciuto, adesso inizia la vera puntata di RadioTube su House of Cards. Parleremo tutto dei prossimi blocchi. Cosa? Ce l'abbiamo? Non lo so, proviamo a sentire se abbiamo House of Cards. Si usa dire che abbiamo i leader che meritiamo. Un leader che non abbia mai paura di guardarvi negli occhi e di dirvi in che cosa crede. Io credo che l'America meriti Frank Underwood. E nel vostro cuore sapete che ho ragione. E no, purtroppo non possiamo parlare di House of Cards perché sono le 17:15 minuti, quindi niente, dobbiamo andare nel traffico, quindi traffico dopo. Vince su Frank. Lo facciamo dopo, traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. YouTube. E ritorniamo insieme, ma parliamo dell'House of Cards italiano. No, come? In che senso? Mi avevi detto che non parlava. No, perché pensavo, allora, House of Cards, grande attesa, grande successo. Sì. Ma sì, però è un po' banale, le elezioni americane sono sempre come queste solite. Ma invece parliamo di storie più interessanti che sono più vicine a noi. Più vicine alla nostra cultura, il nostro. Sanremo abbiamo già parlato, sì? Escita non c'è ancora, saprei dire. Allora te lo faccio subito, sentiamo se indovini. Sentiamo. Chi è quest'uomo? Questo è l'uomo che non avrei mai spiegato a vedere, se sono andato via dal veicolo. Questo? Ma sei sicuro? Sicurissimo, commissario, io due. Bravo, anzi bravissimo. Senti, mi puoi prestare il cellulare che faccio stampare le foto? E che necessito il cellulare mio? A foto ci posso spedire. E come me le spedisci? Tagliassi, commissario. Dici da suo numero so qua. Il mio numero di cellulare? Sì, un numero di cellulare. Ecco qua. Ecco. Inviato. Inviato, ma a me come mi dovrebbero arrivare? No! La foto! Ma è facilissimo! Beh, ha imparato a usare il cellulare a mandare le foto, il commissario allora, Montalbano! Montalbano Sogno ha imparato a mandare. Non si è capito se via SMS o WhatsApp. cioè se è già nel livello avanzato, cioè di MMS esistono ancora? Qualche volta arrivano, non si è capito, insomma. Però Montalbano ha fatto il regalo, ha sfiorato Sanremo come l'Inter ha sfiorato l'impresa. Montalbano ha sfiorato Sanremo. Però c'è una differenza tra l'Inter e Montalbano, parecchie. Montalbano tipo... ha ancora una puntata e l'Inter non ha più possibilità. E poi Montalbano ha un fisico notevole. No, poi Montalbano adesso ha un'altra sfida, deve arrivare agli 11 milioni perché adesso c'è quel tetto lì da superare sempre sempre più forte. Però magari è troppo facile, magari chi lo sa adesso cerchiamo di capirne qualcosa di più. Con chi ne parliamo, Daniele? Allora, questa settimana noi abbiamo letto un bellissimo articolo, perché siccome la vittoria era una stravittoria, certo, abbiamo letto un bell'articolo su Repubblica di Antonio Di Pollina che diceva: ma non sarà che un po' troppo facile come vittoria? E allora abbiamo deciso di capire se dentro questa vittoria c'è un elemento di facilità in più rispetto al resto. Credo che... Allora, noi ce l'abbiamo in collegamento, è uno dei più bravi critici italiani, scrive su Repubblica ed è Antonio Di Pollina. Buonasera Antonio. Buonasera. Ma buonasera a voi. Che meraviglia, eccoci. Posso anche dire non solo uno dei più bravi, ma anche uno di quelli che si prendono meno sul serio, che salgono in cattedra, perché questo i critici è un complimento vero. I critici televisivi sono di solito di una pesantezza e di un'autoreferenzialità totale. Antonio, tutto questo non l'ho fatto per nulla, qualcuno se ne accorge, è bellissimo. Dopodiché io mi ero preparato su House of Cards, francamente. Ecco, ma, allora niente, cambiamo scaletta. Fate come volete. Ma siete due indisciplinati, allora non ne avevo uno, adesso ne ho due. Allora, anche due interisti per questo, ma comunque... Vabbè, ma questa settimana non lo sapevo, devo essere più... Giuro che non lo sapevo. Questa settimana devo essere più buona, ne ho dette abbastanza. Allora, io ero entusiasta di Montalbano. Il giorno dopo leggo l'articolo di Antonio Di Pollina e mi faccio qualche domanda, perché effettivamente forse c'è una facilità eccessiva nella scrittura di questo. Insomma, Antonio, aiutaci a capire, è un successo totalmente meritato oppure si può rischiare di più anche sulla Rai? No, io credo che si potrebbe rischiare di più, francamente, o quantomeno. Io sono rimasto un po' perplesso dalla puntata di lunedì in particolare, perché io in realtà mi ero sempre abbastanza divertito con gli episodi precedenti. Lunedì era una cosa abbastanza pesante, aggrovigliata, mi sembra di aver usato questo termine, a un certo punto non capivo, e poi sono partiti con una cosa che non fanno in genere da Montalbano, i sottofinanziamenti ripetuti in cui mezz'ora prima della fine il colpevole è uno, poi si scopre che non è lui ma è un altro ancora, e tu sai che non è che non può essere il colpevole alle 23 perché manca ancora mezz'ora di puntata e quindi devono ancora succedere un sacco di cose, e quindi ti stanno prendendo in giro, in pratica stanno cercando di sviarsi. Io mi sono anche perfino un po' annoiato, tanto che sono andato a dormire dicendo: ma vuoi vedere che è la volta che si sono annoiati anche gli altri? Il mattino dopo si guarda gli ascolti, si fa un salto sulla sedia e si dice: evidentemente sbaglio io, c'è qualcosa che non va, dove va. Poi ci pensi un attimo, e in questo caso è abbastanza chiaro che, oltre al fatto che ormai la gente appena vede Zingaretti probabilmente lo porta in giro, tipo il riflesso pavloviano, ma lo portano anche in giro come se fosse Gesù o la Madonna, ma oltre a quello c'è una quota incredibile di persone ormai che giudica probabilmente intollerabile perdersi l'appuntamento con Montalbano, che non se lo perderebbe qualunque cosa ci fosse, qualunque cosa passasse. E quando arrivi a quel livello, e stiamo parlando ormai di 18 anni fa della prima puntata, quindi è un tempo robustissimo, sì, era è ancora una cosa del Novecento, tanto 1999 il primo episodio, quindi evidentemente c'è una quota notevolissima di persone che non ci penserebbe proprio a perderselo e che se lo vuole guardare qualunque cosa succeda. Poi libero io o altri di aver giudicato quella in particolare, una puntata che ho fatto davvero abbastanza fatica a seguire per intero, forse perché intanto siamo abituati a vedere House of Cards, cioè a vedere cose che vanno molto più svelte, o a parte la gag, ma anche i gialli, i thriller che vanno nelle serie USA a essere sollecitati a un ritmo superiore, e quindi io questo l'ho un po' sofferto più del solito, ma evidentemente non succede alla gente. Un'altra cosa che volendo posso aggiungere, chissà poi se è vero, non avete sentito nessuno in Rai vantarsi perché c'era pubblico giovane. Effettivamente comunque quello non vero, c'è, vero, perché è un po' il tormentone in questo periodo del esatto. abbiamo abbassato l'età. Esatto, in questo caso non ci si pensa proprio. Ora, voi siete abbastanza giovani, io che comincio quasi a non esserlo più, vi assicuro che dopo un po' la voglia di vedere cose che comunque appartengono a una storia che in passato ti ha fatto piacere o comunque ti ha benevolmente accompagnato e non ti ha tirato particolari fregature, quella non te la vuoi perdere. Secondo me quello un po' c'è. E dopodiché lunedì sera vediamo quest'altra puntata. Io spero almeno che sia un po' piena di friccicore in più rispetto a quella pesantezza che personalmente ho avvertito, ma probabilmente solo io. Ma non so se hai notato che su voi siete abbastanza giovani, noi abbiamo siamo stati zitti. Non abbiamo né smentito né confermato. No, abbiamo proprio diciamo. Siamo stati zittissimi. Perché così tanto alla radio non si vede, quindi possiamo far credere tutto. Antonio, la cosa, il giorno dopo, quando sono arrivati gli ascolti, ho dovuto fare il classico pezzo per il giornale radio su quanto classico, ma giusto. No, sì, il record. Allora mi sono messa lì a spulciare il numero degli episodi, come si fa sempre, no? Il conto, qual era stata la puntata più vista in passato, eccetera. In realtà la cosa incredibile, che ogni volta mi manda ai matti a pensarci, che gli episodi di Montalbano in tutto sono pochissimi, non sono neanche 30, ma sono andati in onda talmente tante volte, oltre 150, che sembra veramente una delle serie più lunghe. Come Dallas, tipo. Sì, ma che guarda, come Beautiful, direi. Ma perché la gente non solo lo guarda, ma lo riguarda? Perché 150 repliche è oltre ogni umana sopportazione. Sì, e probabilmente è la cosa che ha meno differenziale di ascolti tra la messa in onda regolare e la replica, che fa al massimo 1 milione in meno, 2 milioni in meno, ma tutti gli altri se lo riguardano comunque. Io credo che sia quella cosa, cioè una cosa assolutamente, ma lasciamo stare anche il successo letterario per cui tantissima gente ha letto Camilleri, la ha amato, e nei libri c'è comunque sempre parecchio friccicore in più, e quindi magari lo si ritrova, ma evidentemente questi possono anche permettersi di cambiargli l'attrice fidanzata e metterne una sì, completamente tra diversa. Tra l'altro prima. Una anche nota, quindi non un volto e anche notevole, mi permetto di dire. Esatto, e va lo stesso, c'è un incatenamento, non saprei come altro definirlo, che rende del tutto inconcepibile il fatto per quel numero di persone, per il grandissimo pubblico che ormai si raduna per, appunto, l'avete detto, Sanremo, Montalbano, in quota abbastanza inferiore Don Matteo, perché lì invece gli episodi sono tantissimi e comunque non è che ci si può stare dietro davvero in 12 milioni tutte le puntate, ma sono sempre comunque 8 milioni che stanno lì, quelle 3-4 cose, il grande pubblico di Rai 1, che è una formulazione che diamo, ma che poi credo sia fatto da... Io ho avuto colleghi il giorno dopo che mi hanno detto noi a queste cifre non riusciamo a crederci. Allora io ho cominciato a pensarci un attimo e ho detto scusate, voi abitate in un condominio, sareste in grado di escludere che una persona su 5-6 del vostro condominio ieri sera abbia visto Montalbano? E tutti mi guardavano e mi dicevano beh sì, effettivamente può starci, quindi probabilmente è anche vero, cioè non è attaccabile neanche da questo punto di vista, e quindi è una cosa che c'è. Se posso dire, è tra i fenomeni di massa e così è fra i più innocui, e quindi io giusto, non no, certo, non alla tendo... fine è rassicurante. Anzi, il fatto che venga venduto così tanto all'estero, esatto, che porti anche brava del turismo, è un ma ottimo. Sì, un ottimo sì. Sì. Quello, avercene vorrei dire rispetto alla quantità di cose da molti meno milioni, ma che viene considerata TV molto più baldanzosa e che sta andando negli ultimi anni. Quindi personalmente ne prendo atto, però effettivamente numeri così, diciamolo, quel lunedì mattina non se li aspettava davvero nessuno in quel modo. Antonio, aspettiamo allora di leggere cosa scriverai su Repubblica dopo il secondo episodio per soprattutto sapere. Vedremo tutto come al solito. Sì. Dipende da quello che diceva Daniele, cioè se dovesse fare ancora più di 11 milioni saremo ancora tutti lì a cercare di trovare un motivo. Forse invece sarà la volta che lasceremo un po' andare la cosa, diciamo, è così, non fa male fondamentalmente a nessuno e per una volta non facciamola neanche lunghissima, guardiamola e portiamo a casa il risultato tutti quanti, ognuno per quello che crede di poter fare. Grazie, grazie ad Antonio Di Pollina, grazie per essere stato con noi. A buona presto, serata. Grazie Antonio. Amala. Ciao. Noi ci sentiamo tra poco, una breve pausa, poi parliamo ancora tanto tantissimo di televisione in questo Radio Tube. Sono molto contenta, tra poco. Che cosa vuoi? La tua più assoluta e incondizionata lealtà. Radio Tube. Trenta ragazze determinate provenienti da tutta Italia. Sono una milanese doc. Sono di Firenze, non si sente. Sono romana di Roma. Hanno tutte una cosa in comune. Sono single. Ah, belli! Non so se li spavento. Non mi piace stare da sola. Mi ha lasciato per un'altra. Take me out. Davanti a loro un single dopo l'altro, pronto a mettersi in gioco per ottenere un appuntamento. I single sapranno tenere acceso l'interesse? O le ragazze spegneranno le loro speranze? Allora, è un programma che sta conquistando tutti, sta prendendo piede. Io sto cercando di capire perché un fenomeno, tutta la mia timeline. Ah, lo so. No, ma gli stessi che seguono House quello. Of cards. No. Siamo tutti drogati di questo Take Me Out. Mm. Tanto che, allora, do un po' di numeri. Sì, la vai. Striscia Quotidiana faceva 493.000 telespettatori media puntata con l'1,9% di share. In prima serata. Real Time, infatti, è finito in prima serata dal 1 marzo. È arrivato anche Take Me Out Party Night, cioè in prima serata su Real Time, che poi è il canale 31 del digitale terrestre, su Sky 131 e 132. Sono stata brava, ma l'ho letto perché non è che mi ricordo proprio tutto. Prendi tutto a memoria. Prendo fiato, lo presenti tu. Io sono contenta di averlo a Radio 24 che perché lui siccome è... lui è una voce di una radio, di un'altra radio che salutiamo. Non diciamo. Sì, lo diciamo, salutiamo Radio DJ. Perché non possiamo salutare Radio DJ? Vabbè, dico allora, io. Linus, lui è uno. Ciao. Lui è uno del trio Medusa, ma è soprattutto il conduttore di Take Me Out Party Night e quindi chiediamo anche a lui perché di questo successo enorme. Buonasera Gabriele Corsi. Buonasera. Buonasera Marta, buonasera Daniele. Ciao, buonasera. Hanno detto che sei in mezzo a una tempesta di neve, quindi no, speriamo che... spettacolo meraviglioso, guarda, niente di meglio di intervenire in una diretta radiofonica su Radio 24 e mentre vedo nevicare. Beh, bah, ragazzi, bene. Ragazzi, ma perché poi quelli delle radio si vogliono bene tra loro. Di loro. Sì, sì, no, è vero, io mando sempre i messaggini quando questo ascolto... Questo buonismo, vabbè. Non è vero, io mando sempre i messaggi agli altri, alle altre io radio. Io sono d'accordo con te, a me sembra che ci sia una sana competizione ma basata sul merito. Sì, ma sì. Sì, ma qua dobbiamo parlare di un successo televisivo, è non vero, radiofonico. È vero. Quindi Marta, Gabriele, riporta all'ordine la cosa. È una cosa pazzesca. Cioè tu, adesso lo so che la domanda è scema, però, ma te l'aspettavi? Perché veramente è iniziato come tutte le trasmissioni di Real Time, con gli annunci, sì. Però beh, poi nicchia è diventato... alla grande, no? Si dice, di nicchia alla grande. Mi piace, cioè, di nicchia alla è grande. È nicchia ma va alla grande. Ecco. Però invece... è scoppiato, ti è scoppiato è tra scoppiato. Le mani. Mi è scoppiato tra le sì, mi sembra la definizione giusta. I meriti, come al solito, non sono mai dei singoli come i demeriti. Qui c'è un grande gruppo autoriale, insomma, una bella produzione e un format che funziona molto bene. L'unica cosa che non va è il conduttore, ma questo dimostra che poteva presentarlo chiunque proprio sulla faccia della terra. No, anzi, sai che prima noi abbiamo avuto in collegamento per parlare del commissario Montalbano Antonio Di Pollina, che invece ha scritto di te una quota di ironia e autoironia superiore rispetto al previsto ed è merito soprattutto di Gabriele Corsi. Cioè, Di Pollina ha scritto che è merito tuo, sì, ti sei lucidando. Sta invecchiando male Di Polli. No, sì, ti sei lucidato le unghie sul bavero della giacca. Molto, molto. No, devo dire che fa sempre piacere. Poi guarda, è inutile che uno dice no, io le critiche. No, le critiche fanno piacere quando sono positive e fanno male quando sono negative. Poi ci sta, sono giuste, non è che stiamo qui a cercare, come dire, la di piacere al globo terracqueo. Il successo di Take Me Out, io sinceramente, cioè, ci speravo, non pensavo che sarebbe diventato un successo così ecumenico, perché dicevate bene voi, cioè, quando tu guardi su Twitter, anche chi è che twitta su Take Me Out, è trasversale il fenomeno, quindi sì, per piace un po' ai ragazzi soprattutto, per carità, perché è un gioco, perché è veloce, ma piace anche a chi come noi ha vissuto gli anni Ottanta e quindi ricorda quel sapore un po' di trasmissioni molto leggere. Cioè, ti senti un po' Predolin in quei momenti lì, dai. Guarda, io ti dico la verità, il paragone non solo non mi innervosisce, ma mi imbarazza. Cioè, io penso che lui sia stato uno molto molto bravo e lo è tuttora, cioè, nel senso che, voglio dire, mi sembra che fosse uno dei migliori anche come presenza scenica, come pulizia. Sinceramente l'accostamento non mi sembra così sbagliato al gioco delle coppie. È un gioco delle coppie 2.0, dove vige quel principio proprio di leggerezza, cioè non è nostra intenzione far convolare qualcuno a giuste nozze. Poi se questo capita, ben venga, però non è la finalità dello show. Daniele. No, mi incuriosiva questo aspetto, perché secondo me, allora, io adoro molto l'ironia come dote anche nella vita privata, perché il senso del limite è, diciamo, è la cosa che ci fa andare avanti facendo più del bene agli altri che l'opposto del bene. Come si porta l'ironia in televisione? Ci dai un suggerimento? Marta, in fondo noi vogliamo portarla alla radio in questa ora del sabato del villaggio. Dacci una mano, come si porta l'ironia in televisione? Credo che indirettamente hai dato una risposta che in questo programma mi ha aiutato molto. Cioè, la scelta è ricaduta su di me soprattutto come personaggio radiofonico, non come personaggio televisivo, perché è un programma senza testi fondamentalmente. Cioè, non c'è, c'è una scaletta, c'è un meccanismo del gioco, i tre round del single, ma poi le interviste, quello che avviene con il single, non è preparato, non ci sono delle domande che vengono, come dire, vagliate da autori. Quindi, secondo me, vince questa freschezza che è molto radiofonica. Cioè, io lì sono me stesso, cioè sono quello che sono anche in radio, ma quello che sono anche un po' nella vita. Quindi una persona che non si prende mai sul serio, che non prende le cose mai sul serio e che bonariamente, insomma, prendo anche un po' in giro le ragazze, prendo in giro i loro difetti, poi i ragazzi. Quindi credo che vince questa cosa che si capisce che nessuno è lì a prendersi troppo sul serio. Forse questa è stata una delle armi vincenti di Take Me Out. Senta. C'è un nostro ascoltatore affezionato. Sì, scusa, no, ti dicevo che c'è un nostro ascoltatore affezionato, Carlo da Latina. Sto perdendo anch'io la voce dopo tre ore. Che ci scrive. E non tifi Inter contro la Juve, peraltro, quindi è più grave. Che ci scrive, non a caso, push di interruttore. Perché push ormai stanno arrivando tutti i messaggi. Perché in rete ormai si dice push di interruttore. Perché quando non è amore. Esatto. Push di interruttore, oppure se non vi conquista, sta la vista. Diciamo che sono delle frasi che sono state scritte, insomma, diciamo, per cercare di ricordare anche il format inglese, che è quello a cui noi ci rifacciamo molto. Sai, questo format è in 28 paesi, così a tempo perso, se voi andate appunto su YouTube a guardare come sono fatti, cambiano profondamente, cioè c'è qualcuno che lo fa anche molto molto seriamente. La nostra versione è la versione inglese, tant'è che è venuto Chris O'Donnell, che è uno dei detentori del format, ha fatto anche X Factor con Simon Cowell o Got Talent, insomma quel tipo, quel sapore di show televisivo. E lui mi ha detto, per farmi capire, mi ha detto, guarda, it's a comic show, cioè uno show comico, vivilo come questo, non viverlo come un dating. E questa cosa mi ha aiutato molto. L'ironia che torna. Esatto, l'ironia che torna. Ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Io appunto... E vai! Io sono biondo naturale, quindi, come dire... E io sono cappellone. Io sono bionda dentro. Esatto, quindi non brillando di intelligenza... Devo vivere di ottimismo, quindi io appunto dico sempre che una grandinata è un buon inizio per un mojito. Questo deve essere l'atteggiamento. È grandissima, dire, questa cosa. E poi a quest'ora. Futuro. Esatto, senti, a quest'ora è perfetto. Furia e Giorgio, cosa ti hanno detto gli altri due del trio? Ti guardano, ti criticano, Medusa, ti massacrano. Mi massacrano giustamente, però siccome tra noi vige un principio che è quello dell'amicizia fraterna, di essere colleghi. Lì ho fatti venire, gli ho detto datemi una mano, ditemi che l'atteggiamento è quello giusto, cioè finché loro non sono venuti a vedermi, a dirmi guarda il programma è molto carino, è divertente, eccetera eccetera, mi sono sentito tranquillo, cioè ho bisogno anche sempre molto, diciamo, della loro approvazione, e mi dicono delle cose molto molto carine, cioè mi dicono che ho lo stile giusto appunto, e il fatto che non scada mai, che non ci sia mai, capito? Ma come si concilia essere quello dei tre che fa anche altre cose, però poi essere parte integrante di un trio famosissimo? Come ce la fai? Ma non ci poniamo problemi, sai, diciamo che nei gruppi ognuno ha magari delle sue peculiarità. Io sono poi un po' quello che si muove un pochino più in autonomia, ma anche perché mi piacciono più cose, cioè mi piace recitare, appunto mi muovo tra Take Me Out e un film con Bentivoglio, quindi diciamo che questa è mi piace moltissimo, capito? Sono un curiosone, sono uno che si butta nelle avventure. Non sono gelosi? No, anzi, poi voglio dire, no, ma guarda, lo so che sembra una risposta, diciamo, no, chiedo, in maniera o scontata, però non è così. Poi voglio dire, loro hanno altre caratteristiche, per esempio Giorgio ha fatto un documentario sui cartoni animati, sui manga, essendo un grande fan, è nel gruppo che decide il videogioco migliore in Italia, appunto in questa commissione, cioè ciascuno poi utilizza anche le sue passioni magari per realizzare qualche cosa. Io loro in realtà, quando io ho cominciato a fare questo lavoro, che già ho cominciato prima di loro facendo l'attore, recitavo in questi teatri off di Roma dove c'erano 40 posti, eravamo in 9 sul palco e 2 spettatori, e di solito erano loro due. Quindi grande, stupendo, ma forse per essere forti come squadra bisogna continuare a coltivare tutte le proprie passioni come individuo, no? Ma guardi, a parte quello, poi noi siamo un clan, cioè noi siamo prima amici, adesso siamo in montagna, siamo tutti insieme con mogli, con figli, cioè noi ci muoviamo veramente in gruppo. Questa roba qua è una roba che a volte stranisce anche, cioè, ma come fate? Cioè, noi 25 anni che lavoriamo insieme, penso che se non ci fosse questa parte di grande affetto, veramente anche di sentirsi famiglia, non saremmo potuti andare avanti così. Io e Marta sono tipo infatti 3.5-4, siamo a un passo. Una coppia di fatti. Gabriele, io continuerò a godermi con grande piacere. Grazie. Ma ancora di più Take Me Out, anche nella versione serale. Sono molto molto molto in contenta. Prima serata, mica pizza e fichi. Sono molto contenta di aver avuto Gabriele Corsi del Trio Medusa, Radio 24. Grazie, Radio ragazzi, Tube. Grazie, viva a la presto, radio, viva la radio, grazie. A presto. Traffico. Non dovevi fidarti di quella donna. E non l'ho fatto, io non mi fido mai di nessuno. Allora com'è possibile che tu non l'abbia previsto? Radio Tube. Io lo so che continuate a farmi sentire House of Cards perché finalmente volete parlare di House of Cards. No, perché è successo qualcosa di molto più importante questa settimana. Ma lo so benissimo. Ma qualcosa di decisamente più importante. Poi, io mi sono già preparata, vestita in modo adeguato, l'ho twittato. Se volete vedere l'ho messo sul mio account di Twitter, sono già pronta, vestita per bene. Tra l'altro sono fantastici. Per smentire sta cosa della maledizione, apposta hanno mandato in onda prima la puntata, chiaramente. Vabbè, ormai avete capito di cosa stiamo parlando. Per essere ironici su se stessi, è una puntata sull'autoironia, ma sono bravi. Poi uno in particolare, io vabbè, lo dico. Vabbè, sentiamo cosa è successo questa settimana. Alida ed Erika, ci siamo. La vincitrice della 5ª edizione di MasterChef Italia è... Io non ho vinto io, nonostante io abbia il mio grembiulino con scritto vinto Marta. Erika. Ci sono un po' di polemiche sulla rete, per la verità. C'era un forte tifo anche per Alida. Io sinceramente pensavo vincesse Alida, devo dire. Sì, no, io invece ero convinta. Tu avevi capito? Vabbè. Io avevo capito, Ma però è il momento di parlarne con uno io dei sono veramente molto contento, perché è un veramente mi piace come allora, traspare la sincerità, mi piace la genuinità. Ti cedo l'onore della presentazione. No, fallo tu perché tu ti lo sai. Ti emozioni? Perché lo si sta un po' emozionando. No, ma lo sa perché l'ho scritto una volta. Abbiamo al telefono uno dei più fighi dei cuochi d'Italia. Io lo so, lo dico, ormai dopo 3 ore di diretta non ho proprio si più filtri, dire. Lo dico senza problemi. Forse è il più figo, posso dirlo? Sì, è il più figo di tutti. Buonasera Bruno Barbieri. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti quanti voi e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Senti, com'è stata? Tosta? Vorrei incominciare con Niente facile ma nulla impossibile, che era il titolo del menù di Erika. bellissimo lavoro. Sì, è stata un'annata abbastanza complicata, anche perché si arrivava già da un'altra annata ancora più complicata, quindi quest'anno è stata molto, molto difficile, ma anche molto divertente, perché comunque ci siamo divertiti tutti quanti, spero anche tutto il pubblico, spero anche voi che mi avete chiamato oggi. Sempre tantissimo, noi. Sì, poi molto. Daniele è impazzito, guarda, è un fan. No, io sono un fan di Bruno Barbieri, lui lo sa perché l'ho scritto una volta. No, io avevo questa curiosità, anzi veramente due, le faccio velocissime e poi mi taccio. La prima, il fatto che i grandi chef siano ormai centrali nella nuova classe dirigente del paese, perché in tutto il mondo si parla dei grandi chef italiani, da un certo punto di vista è quasi una responsabilità tosta, pesante. La seconda cosa è, un tempo degli chef non si sapeva quasi nulla, erano misteriosi, quasi c'era della magia. Invece voi avete il coraggio di andare in televisione e diventare popolari, raccontare anche dei segreti. Queste due cose, come le affrontate? Partiamo dalla seconda domanda. Beh, direi finalmente siamo usciti dalle caverne. Siamo sì. stati per anni nascosti nei sotterranei, perché le cucine una volta erano tutte sottoterra, tutte nascoste, negli androni delle scale, nei sottoscala. Oggi finalmente anche i ristoranti pongono le cucine a vista, quindi la cucina, il cuoco si deve vedere, perché comunque il ristorante gira tutto attorno allo chef e anche il nostro paese gira attorno allo chef. Finalmente ci siamo resi conto che comunque il cibo, poi serve anche la grande industria, le acciaierie, tutto quello che le banche, tutto quello che ci va dietro. Però noi abbiamo raccontato, stiamo raccontando il nostro paese, perché non è solo la cucina, perché attraverso la cucina ci sono le piazze, ci sono i monumenti, c'è il territorio, c'è il vino, c'è tutto un sacco di cose che appartengono al nostro paese. Attenzione, tutto quello che c'è di bello ce li abbiamo veramente solo noi in Italia. Dobbiamo essere contenti e orgogliosi e dobbiamo farlo vedere agli altri, dobbiamo farlo capire. Quindi credo che chi ci governa deve tenere conto anche di queste piccole chicche, lavorando bene, facendo arrivare il turismo, dando una mano anche a chi si proietta nel mondo dell'hotelleria, nel mondo della ristorazione, nel mondo enologico. Quindi, perché poi ci sono tutti dei legami, credo. La seconda domanda, ho già perso, la prima domanda invece era... Sentite questa responsabilità di essere un po', come dire, parte centrale della nuova classe dirigente del paese, perché ormai tutto il mondo, noi siamo il paese con il maggior numero di chef stellati, insomma. Beh, tutti devo dire parlano che, di... devo dire che sentiamo comunque questa piccola responsabilità. Poi mi rendo conto che le cose importanti sono forse delle altre, però ognuno di noi deve fare nella propria professione il proprio lavoro da veri grandi professionisti, e questo ve lo voglio dire, non ce n'è per nessuno, perché noi siamo veramente 10 spanne sopra gli altri. Ah, che bello, dobbiamo crederci, dobbiamo riuscire a fare il marketing di noi stessi, del nostro paese, di quello che è un po' il nostro punto debole, il nostro tallone d'Achille, no? La parte di marketing che non riusciamo, cioè vi ricordate la famosa scatoletta a Parigi con l'aria di Parigi? Ecco, cioè queste ti vendono l'aria di Parigi. Vuol dire, noi possiamo vendere, che ne so, la statuina del Colosseo, che ci piace anche, so, Pompei in miniatura, no, facciamo questo, non lo so, era così una battuta per ridere, però dobbiamo veramente, veramente raccontarlo, e dobbiamo raccontarlo nel modo. Bruno, Masterchef dei grandi appena finito, anche se lo avete registrato, lo sappiamo, però comunque la pressione di una trasmissione, anche se è registrata, quando va in onda c'è sempre, perché hai la pressione delle reazioni, del capire com'è andata. Chiaro. E adesso si riparte subito con Junior Masterchef, cioè già da giovedì 10. No, adesso vi voglio raccontare questa. Oggi ci sono già i casting per Masterchef 6. Quindi cioè, è veramente una macchina da guerra. Ma e come reggi? Già... Come fai? Ma come e fate? Quindi è una roba abbastanza impegnativa. E io ho ancora 5 giorni di respiro, poi ricomincia Junior Masterchef, che vi posso garantire quest'anno è veramente una grande chicca. Molto davvero bello. Abbiamo lavorato ancora di più, abbiamo veramente fatto... Poi c'è l'arrivo di un nuovo giudice, c'è tutta una serie Gennaro di cose. Gennaro Esposito quest'anno. Gennaro Esposito, davvero è stato molto bello lavorare anche con lui, con Alessandro Borghese. Abbiamo fatto quest'anno, veramente ci sono delle chicchettine carine che non vi voglio svelare, quindi bisogna stare come se... Ormai giovedì è Masterchef, ormai ce lo siamo già detti da anni ormai, quindi adesso addirittura Junior è tornato di giovedì, perché prima era il mercoledì, è tornato di giovedì, quindi si continua fino a fine, cioè andiamo avanti. Bello, però molto bello. Quest'anno è stato difficile perché, vedete, la gente, sai, il giovedì ti metti a sedere nel tuo divano di casa con i tuoi amici, con i fan club, ti cucini due cose, mangi, sgranocchi qualcosa. però per noi che l'abbiamo fatto sono stati 7 mesi di lavoro veramente ininterrotto, veramente tutti i giorni, tutta l'estate, cioè giorno dopo giorno, perché poi sembra così, ma è difficile muoversi nelle esterne, andare dall'altra parte del paese, da una parte all'altra, insomma, poi oggi è diventato difficile, perché quando all'inizio non era così, ma oggi quando fai le esterne, che vai in giro, che vedono lì, che vedono, non so, i pullman con scritto Master, c'è l'affetto, c'è l'affetto. E quindi noi ci divertiamo anche, però tante volte dopo 8, 10, 12, 15 ore di lavoro su un set diventa abbastanza difficile, e poi ti succedono delle cose strane. Quando abbiamo girato a Napoli siamo stati chiusi in un sotterraneo per 4 ore, perché fuori c'era la gente che urlava, una roba che poi, voglio dire, facciamo un programma di cucina, ogni tanto ci penso a questo. Penso magari ai grandi cantanti, alle pop star quando vanno negli stadi, che vivono una vita anche strana, e quindi è diventato un po' tutto complicato, ma molto divertente. Beh, fantastico, le nuove rockstar, però tema. Rockstar che sono abituate a usare le no, mani, ma hanno alle portato cose un concrete, grande belli, tema belli, che ha dentro belli, cultura, belli, storia, sapore, tutto insieme in un'unica cosa, è diventata una popolare e straordinaria. Io come credo storia. Che MasterChef abbia cambiato davvero un po' il modo, sì, di il pensiero gastronomico, assolutamente, non solo di noi a casa, della gente, ma anche proprio anche in televisione. È cambiato un po' tutto, oggi la gente, per noi è diventato anche molto difficile, perché attenzione, la gente, i ragazzi, le persone arrivano a MasterChef, che ricordiamolo, non sono dei cuochi professionisti, sì, ma sono degli amatori, arrivano che sono strapreparati, perché sì, oggi gli italiani sono preparati, ne sanno, cioè non gliela racconti più, cioè la gente sa esattamente, è super informata, sa esattamente tutto, le e quindi immaginiamo voi come siete. Cioè, quindi noi dobbiamo sempre, cioè, dobbiamo continuare a studiare, continuare perché naturalmente abbiamo quella parte del giudice, siamo i giudici, quindi voglio dire, dobbiamo fondamentalmente saperne di più, cioè per correggere, per riuscire a far capire e a lanciare dei messaggi, perché attenzione, la vera grande forza di MasterChef è che racconta un grande territorio, racconta il sogno degli italiani, che magari hanno un sogno nel cassetto, ma raccontano una storia vera. Che poi bello. La gente ci può credere, non ci può credere, per l'amor di Dio. Però raccontiamo questo, raccontiamo la storia anche, per esempio, di tanti piccoli produttori che non hanno la forza di arrivare dentro un mercato con i loro prodotti così importante, così, così profondo, così tosto come quello italiano e come quello dettato anche dalle multinazionali. E quindi diventa difficile. Quindi noi andiamo a scoprire questi posti, andiamo a scoprire questi piccoli produttori, queste storie che sono davvero, adesso faccio ma chi è che per esempio sapeva, che ne so, che si mangia lo sperma del tonno? Oddio, oh, questa qua che Bruno, mi hai fatto sobbalzare sulla sedia, accidenti, che è finito il tempo a nostra disposizione proprio su questa cosa qua del tonno, su questa del cosa, tonno, del no? tonno ti ha mandato in bestia il tonno. Grazie a Bruno Barbieri per grazie. Essere stato con noi. Va bene, ci ciao chef presto. Ciao chef e a tutti, al prossimo sabato. Ciao.